posta elettronica è ondorossa@ondorossa.info e questa trasmissione è una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani comparirà la playlist e la registrazione di questo programma. Salutiamo Antonio da Firenze, Raffaele Pezzella da Napoli, Gabriel da Londra, Stefano of Florence da Torino come Maurizio Pustianaz, Enrico Carrino da Battipaglia, Enrico Cerrato da Asti, Riccardo Martucci da Taranto, Alessandra qui da Roma. Like Wake ancora qui da Roma, il buon Fabio FK Drone, forse l'ho già detto ma lo risalutiamo, Simona da Pistoia, e Tenente Dan, altro fedelissimo di questi spazi. E il palinsesto prevede alle 22:30 circa 25 o'clock. Eccolo qua. Iniziamo così in maniera un po' rocambolesca. Ma non è un caso che spesso si richiama il problema della sottoscrizione, l'urgenza della sottoscrizione qui in radio, giacché i materiali si usurano e quindi ci può essere anche qualche defaillance tecnica. Comunque è partito, eccolo qua, una new entry in prove tecniche di trasmissione, Artico Culto, progetto di ambient elettronica, di esoterismo, votato verso il Nord Europa, che si rivolge verso anche la mitologia nord europea e scandinava per la precisione, appartenente allo Stefano of Florence già citato ad inizio trasmissione. Questa è una compilation che si apre con una lunga traccia della quale si ascolteremo una prima parte, ossia Iceland Air Does Not Fear, Bardar Bunga, Artico Culto. e ci siamo ascoltati quasi 10 minuti di questa traccia per Artico Culto, progetto di Stefano Florence e Dario Neri, due ragazzi provenienti dal Piemonte. E salutiamo Stefano, orora connesso anche con Onda Rossa e con questo programma. Una traccia divisa più o meno in due parti, una prima parte più prettamente, diciamo, space ambient, e una seconda invece più ruvida e al confine col rumorismo, e che sta proprio salendo in questo momento sotto la mia voce. Non mi sorprende che Like a Wake possa apprezzare, giacché certe sonorità sono anche riconducibili al buon Stefano Di Serio. Artico Culto arricchito anche da belle foto proprio del Nord Europa, isole Faroe, Islanda. Insomma, un progetto che ci dona una ottima dimensione anche sensoriale. E intanto si va a salutare anche Mariolino Stancati dalla Calabria. Antonio di Mai visto in concerto ieri sera, un ottimo progetto che abbiamo apprezzato nelle scorse settimane. Un saluto dunque ad Antonio Tricoli. Nord Europa dunque, Scandinavia, e lì noi adesso andiamo anche attraverso un artista dal nome Necroforus. Uno pseudonimo che nasconde il ben più famoso Peter Anderson, nome abbastanza comune in Svezia. Ne conosciamo ben due, questo più che altro famoso come Rise on Death, e un altro che ha dato vita a Deutsche Nepal e si fa chiamare Baby Lina Doll. Tornando a Necroforus, questo è Undernet The Spirit of Tranquility, un CD, in realtà una sorta di compilation, quantomeno di unione di due vecchi lavori. Questo di stasera, The Impressions of Salvador Dalì, ci ascoltiamo Echo Morphologique, Femme Utet de Fleur Retrovante, eccetera, eccetera, eccetera, un titolo lunghissimo, più lungo il titolo che la canzone, che dura 1 minuto e 54 secondi, e per finire La Persistance de la Mémoire. E chiaramente di Artico Culto ci ascolteremo anche altre tracce nelle prossime settimane. Salutiamo dunque Artico Culto. Eccolo qua, Necroforus. Ancora Necrophorus di Peter Anderson, sul quale saluto anche Urnus Alien. Ottimo progetto, proveniente anch'esso da Asti. Un saluto a Massimo e Tiziana. Impressions of Salvatore Dalì, questo album inserito in Undernet The Spirit of Tranquility per Necrophorus. Peter Anderson, come già detto in passato, ma lo ripetiamo perché credo ne valga la pena, è l'artefice di molti progetti, dallo Space Ambient di Atomine Electrin, all'industrial di Panzer, alle reminiscenze etniche di Svastia Yanam, fino al progetto madre Peter Reisendetr, maestro del dark ambient. E come le scorse settimane, anche questa sera avremo molti artisti italiani, e quindi continuiamo su questo filone, sul filone italiano. Ultimo lavoro da me molto aspettato di Carnera, secondo lavoro per questo progetto proveniente da Sassuolo, capitanato da Giovanni Leonardi. Un secondo lavoro molto vario, eclettico e di spessore, un bel disco devo dire, chiamato La Notte della Repubblica, e quindi come si potrà sentire, ci sono anche campionamenti della storia dell'Italia, i riferimenti alle lotte sociali, al terrorismo, a tante cose che hanno caratterizzato gli anni passati, ma anche questi presenti dell'Italia. Per cui si apre con Pentiti di Nulla, Io So e Paradigma Zeitgeist. A suo avviso Moro credette mai con sicurezza di aver salvato la vita o al contrario di averla perduta.

e questo è Paradigma Zeitgeist. Secondo lavoro dunque per Carnera di Giovanni Leonardi e Ivan Battaglia. E se Strategia della tensione è stato uno dei migliori lavori del 2015, questo La notte della Repubblica è destinato a essere altrettanto per il 2017. Un album eclettico, elettrico, elettronico, ben congegnato, ben suonato, ben concepito, di spessore e di classe, insomma. Un disco che mi sento di consigliare caldamente. E come vedo e come leggo è stato anche molto apprezzato da tutte le persone che ci stanno ascoltando. Vorrei sottolineare la seconda traccia, Io so, ispirata a un articolo uscito nel 1974 sul Corriere della Sera da parte di Pierpaolo Pasolini e le sue, come dire, riflessioni sui fenomeni dell'Italia di allora. Dunque salutiamo Giovanni Leonardi e anche Giovanni Lisi, che si è connesso anche lui da Bari. Come ho già detto, ancora materiale italiano. Il prossimo è Maurizio Pustinaz e il suo Gerstein con questa compilation 32 Years of Rain, che racchiude, non so se dire il meglio della vastissima produzione di Maurizio, ma comunque, secondo il suo agire, probabilmente le tracce più significative della sua lunga carriera. E questa sera ci ascolteremo My Master, un brano del 1998, e Il Male, invece, molto più recente, del 2009. Non siamo così diavolate, abbiamo voglia di te, abbiamo voglia di te. Sildur kept due bellissimi estratti da questa compilation 32 Heroes of Rain di Garstein e di Maurizio Pustianaz. My Master dall'album Barn del 98. E questa bellissima Il Male da Arise of a Bleeding Rose insieme a Gregorio Verdini e Bleiburg, progetto tedesco. Ottimi incroci, intrecci elettronici, un pianoforte eccellente. Complimenti al buon Maurizio. Andiamo via dall'Italia per un po' e ce ne andiamo in Germania. L'etichetta è la Galatkorro, l'etichetta fondata da Aus Arafna. O November Novelet, che dir si voglia, in realtà, come tutti sapranno, sono gli stessi componenti. Secondo disco per Tedis, si chiama Interrogation Gloom, sempre minimal dark wave, ultra inquieta e cupa. Si apre con Twin System e poi ci sarà Two of a Kind e Surface.